Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 passate da un minuto, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente, come piace dire, sottoscritto, la voce è quella di Agostino Spolaore, che è assieme al mio fedele compagno, come sempre. Ciao Maurizio. Buonasera, sì, ma puoi prendere l'acqua, non c'è mica problemi, buonasera. Vuoi prendere l'acqua? Siamo solo nella fossa dei leoni, sì. Ma veramente una fossa di leoni? Sono tantissimi stasera. Esattamente. Ma li presentiamo tra qualche istante. Allora, i nostri dati tecnici, allora il numero telefonico con il studio, lo 049 875 6423. Invece, se volete mandare i vostri SMS a questa band, che vabbè, insomma, ne parliamo tra qualche istante. Vi ricordo i nostri numeri, il di SMS, il 346 23 20 0 33. Blu Radio Veneto, le sue frequenze 88 794 600 MHz in modulazioni frequenza. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it e poi ancora le nostre pagine di Facebook, che sono appunto semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave. Giovedì oggi speciale per me, perché c'è un amico con tutti i suoi amici, un amico che si chiama Claudio, ma che ci porta tutta la sua band. Veramente siamo fieri, io sono veramente onorato di averli qui, perché sono una band che stanno spopolando, stanno entusiasmando tutto, diciamo, la zona del Vicentino, ma anche qui a Padova, insomma, sono molto famosi. Sono i With Matrix. Benvenuti a Blu Radio Veneto. Grazie Agostino, per noi è un vero onore essere qui. Poi con un amico come te. Grazie Claudio, grazie anche a tutta questa marea di persone. Quanti siete? 11 questa sera? Sì, siamo in 11. Siamo proprio la band al completo, insomma. Sì, siamo disposti in tre piani praticamente. Io faccio le presentazioni, se vi consentite. Allora, abbiamo il lead vocal, che sarebbe il cantante, in poche parole, quello che vedete sempre con gli occhiali neri, che ha visto il suo concerto, ed è Mirko Zanotto. Ciao Mirko. Sì, ciao. Quello che è nato nel giorno degli Animals, praticamente, dell'uscita di Animals, 1900 e tanti. Proprio esatto. Il giorno. È sì, proprio sì. Il giorno. Poi ancora, beh, Claudio Pagliati, tu sei il bassista. Esattamente. Il bassista. Che poi saresti il frontman, saresti quello che cos'è, il responsabile. Più vecchio. Più vecchio. E poi ancora abbiamo Sandro Benetti alla tastiera. Non c'è? No, Sandro Benetti non suona più con noi. Ah, io non lo sapevo, chiedo scusa. Abbiamo Claudio Tiso alle tastiere, il nostro nuovo acquisto. Ah, ecco, non lo sapevo, beh, chiedo scusa umilmente, io ho trovato questo. E anche il nostro sassofonista è nuovo. Che è Alessandro. Alessandro, esattamente. Alessandro, ma quello lì lo avevo già visto anche l'altra volta. Il grande Alessandro, che lui ci tiene. Poi abbiamo Paolo Magaraggio, che è il... Ciao a tutti. La chitarra solista, una delle due chitarre soliste. Giusto, giusto Paolo, mi senti? Sì. Parla vicino al microfono Paolo, grazie. Sì. Poi abbiamo Francesco Fiorese. Ciao a tutti, buonasera. Che tu saresti l'altra chitarra. Sì. Quello che sta sulla sinistra. Se non disturbo. Poi abbiamo Ivan Franchetto alle percussioni. Ciao a tutti, ciao. Beppe Corazza al sax e flauto, che non c'è neanche lui, bene. Poi c'è Marta Melchiori. Ma quelle non c'è, ci neanche... sono. C'è. Sì, lei, ciao, c'è. Marta. Antonia Pia. Eccola là. La Serena Paginato, che siamo diventati amici ormai. E poi c'è, vabbè, poi ci sono i ballerini che sono poi. E Andrea Bassan, il nostro nuovo batterista percussionista. Che è quello che erano in due. Esatto, come avrai visto nell'ultimo spettacolo. Siamo ancora in due. Io ho visto quello Ciao. Io ho visto quello spettacolo a Vicenza una ventina di giorni fa, più o meno, e c'era una batteria, due batterie mostruose e un percussionisti. Sì, due batterie e percussioni. Abbiamo ampliato il palco percussivo e per noi è stata, diciamo, una mossa vincente, perché ci ha portato molte soddisfazioni che non pensavamo. Perché lo pensavate? Perché non come qualità di musicisti, perché non si discute, perché Andrea è un grande, Ivan anche, ma per la complessità di proporre uno spettacolo così, perché 11 musicisti sul palco, due batterie da amplificare, percussioni, insomma è un bel impegno, però il suono è veramente qualcosa di potente. Sì. Come si fa a amplificare due batterie di quella portata, che visto che ho visto nello spettacolo, nel video che c'è? Beh, intanto ci vuole un fonico veramente capace. All'avanguardia. Che non bravissimo. È facile. Chi sarebbe il vostro fonico? Il nostro fonico si chiama Marco Peverati, un grande. Lo salutiamo. Lo salutiamo, che adesso è in tour con Giovanni Allevi. Quindi insomma. ecco. Abbiamo detto tutto. E Malika. E Malika, sì, perfetto. Quindi due batterie, strumentazione quindi pomposa, perché è un disco dei, cioè riproporre il suono dei Pink è un suono pomposo. Già all'inizio di carriera era pomposo, quando spaccavano nei club londinesi. Sì, sì, sì. Noi diciamo... C'era Syd Barrett una volta, che era un po' diverso il discorso, però il suono era già si formava, cosa dici? Sì, sì, sì, sì, sicuramente. Poi con l'andare degli anni hanno sempre cercato nuove sonorità, certo, hanno potenziato sempre di più, fino ad arrivare al 2005 quando hanno fatto Pulse, che hanno deciso di affiancare al loro batterista storico Mason un altro batterista e percussionista. Certo. E noi abbiamo, dopo 5-6 anni, anche noi che continuiamo... C'è qualcuno che ha la cuffia un po' alta. C'è qualcuno che ha la cuffia un po' alta che parla. Poi, sì, vai, scusa, abbiamo copiato, diciamo, questa sonorità, l'abbiamo fatta nostra e siamo andati anche un po' oltre, perché abbiamo arrangiato in stile Pulse anche brani che non sono suonati su Pulse. Abbiamo messo un po' di nostro, diciamo, del nostro, e il risultato è stato ottimo. Ok, certo. In stile Pulse, cioè in stile ultimi Pink Floyd praticamente. Ultimi dopo, Pink Floyd. Dopo l'abbandono forzato, non forzato, tutto, è un discorso molto lungo che ancora sono ancora praticamente vie legali di Waters praticamente. Sì, esatto. L'abbandono da Final Cut, le cose sono cambiate. Per voi musicalmente sono migliorate, visto che Gilmour è diventato l'artefice principale di tutto, oppure no? Ma qua ci sono due correnti. Due, diciamo, correnti di pensiero. I Gilmouriani. Lui dice di no. Noi siamo più legati al periodo di Waters, diciamo. Ho capito. Però dobbiamo ricordare che Waters ha fatto fuori Wright, però in un determinato momento della carriera dei Pink. Poi l'ha richiamato per motivi diversi. Però sì. Però, Ma che il dibattito, diciamo, fa bene alla salute. Ho visto io e le facce sono totalmente diverse su quando abbiamo toccato questo tasto dolente. Sì, qualche chitarrista preferisce Gilmour, logicamente. Certo. Io direi di fare subito qualcosina. Sì, facciamo sì. Qualcosa dal vivo o volete qualcosa dal disco? Cosa volete? No, io direi partiamo subito con una canzone dal vivo. Dal vivo, così si fa, così mi piace. Cosa ci fate ascoltare adesso? Vi faremo ascoltare un classico, Wish You Were Here. Wow, bellissima. Come nasce questa vostra scelta di questi pezzi, insomma? Per esempio Wish You Were Here. Parlo per i concerti, Claudio, ovviamente. Wish You Were Here è un classico, è una canzone che praticamente è una delle più famose, la sanno tutti. Non può mancare dal repertorio. No, impossibile. Altre canzoni si possono trascurare, ma Wish You Were Here è proprio una di quelle che non devono mancare, assolutamente. E così vale per le altre canzoni che avete scelto, insomma. Sì, sì. Ci sì. Sono delle preferenze, ognuno c'ha la sua, in pratica. Ma per questa sera, diciamo, abbiamo scelto un po' dei classici, in più una che forse è meno conosciuta, però l'abbiamo arrangiata un po' a modo nostro e poi sentirete una particolarità. Siete pronti? Sì. Tra qualche istante. Allora, dico, lo toglio. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a coasty rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? And did they get you trained? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for a change. And did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? Ricordi, Maurizio, quanti ricordi. Sì, e la prima volta io sto sempre in piedi, non sto mai in piedi nelle esecuzioni, stavolta stavo in piedi, starò in piedi per tutto il concerto. È una cosa, ragazzi, insomma, wish you were here, wish you were here. Difatti c'è una, tempo fa, Jam, una rivista musicale, ha scritto queste piccole note, queste introduzioni su Wish You Were Here, poi chiediamo la collaborazione loro se sono d'accordo. Un arpeggio di chitarra a 12 corde registrato come se fosse catturato da una stazione radio, incrementato dal secondo giro da una solo di chitarra acustica, uno dei brani simbolo dei Floyd, da sempre opera esecutiva di Gilmour. E Waters ci ha fatto un qualcosina, però è di tutto di Gilmour. Sei contento di questo? Chiaramente sì, visto che non sei pro Waters, come me. Sì, come me. Che emozione dà fare Wish You Were Here, che lo conoscono tutti. Da 30 Beh, milioni di copie. Noi è tanti anni che la suoniamo, però ogni volta è una canzone che ci carica, è una cosa, parte con questa melodia, con questo solo di chitarra che ti cattura completamente, e poi con questa voce particolare, diciamo, di Gilmour. E poi l'esplosione interrompo. No, infatti cantata da tutti, sì, è un'altra cosa. Come live sicuramente la soddisfazione sì, più grande. E il pubblico cosa, come reagisce alle prime note? Alla grande. a scambio, tu l'hai visto alle prime note, al simbolo, perché le prime note sono un simbolo. Ti confesso che la canzone più, vabbè, poi ne parliamo magari. Dimmi, per la canzone quella più amata dal pubblico è quella a tre voci, cioè The Great Gig in the Sky. Ma quella, poi, quella... stasera purtroppo non è dal vivo, cioè, io che ero nel pubblico vi posso garantire, però insomma comunque tutte date la carica, insomma, quindi poi anche l'ultima Run Like Hell, quella cosa stratosferica, vabbè, insomma comunque ne parliamo con calma durante la trasmissione. Chi è che ho interrotto, che chiedo scusa? No, beh, non hai interrotto niente. Il cantante. No, stavo solo parlando della soddisfazione enorme che è fare eseguire dal vivo una canzone famosissima come Warrior, che cantano tutti. Ecco, esattamente. È la tipica canzone che cantano tutti, assieme a una che faremo verso la fine del concerto. Ma è difficile... predisporsi all'idea di suonare un pezzo storico come Wish You Were Here, al di là, che preparazione ci vuole per suonare un pezzo simile? Vai, dimmi. Ma è sempre un problema, perché ci sono certi pezzi che li puoi modificare, li puoi suonare, farli propri, ma Wish You Were Here deve essere fatta così, cioè non si può modificarla, cambiare accordi. Voglio portarti un esempio, non so, Imagine di John Lennon, è stata fatta in 14.000 versioni. Esatto. Wish You Were Here così deve così essere è. Fatta. Come la Bibbia non si può cambiare. Sì, Bibbia musicale, possiamo dire. Visto che Sgt. Pepper è la Bibbia musicale, per i Pink Floyd la Bibbia musicale Wish You Were Here. Esatto, ci sono certi pezzi che nascono così e così devono essere fatti. Io ne approfitto, apro una piccola parentesi, vi rubo qualche secondo. Devo salutare un ufficio stampa che mi ha contattato la settimana scorsa per farmi un'intervista, ed è nella persona di dove è andata a finire adesso, non mi altro, Antonella Gucci, e che so che ci sta ascoltando, quindi sta ascoltando anche voi. L'ufficio stampa è dalla zona Ligure e si chiama AG Ufficio Stampa e Comunicazione. Quindi un saluto alla Antonella. Salutiamo anche noi, allora. Se avete bisogno, magari potete essere. Siamo disponibili per un concerto. E ringrazio l'Antonella per tutte le belle parole che ha speso per il sottoscritto. Allora, With Matrix, da cosa, come nascono? Torniamo indietro con il tempo. Sono nati nel 70. Proprio data di nascita. Allora, artisticamente, beh, diciamo che questa formazione è ormai attiva da quasi 20 anni. Io e Ivan siamo i due storici, siamo partiti proprio all'inizio, proprio da ragazzini, e abbiamo suonato sempre locali, birrerie, insomma la classica gavetta. Però devo dire, il primo concerto nostro, proprio il primissimo, il debutto, è stato su un teatro. Noi avevamo già le idee chiare ancora 20 anni, perché ormai sono passati 20 anni, a Pieve di Curtarolo, mi ricordo ancora, abbiamo fatto un concerto, tutto esaurito subito. Subito proprio. Battesimo, fuoco. Ma voi fate tutto esaurito dappertutto, insomma. Cioè. Insomma. Poi sta andando bene, ecco. Siamo un po' tutti esauriti anche noi, forse. Sì. Floydianamente, 1972, che anno segna? 72 è l'uscita di Dark Side. Uscita di Dark Side. Voi avete 73, iniziato 73, sì. Inizio 73. 73. Sì. Perché è il post Atom Art Mad, un album che loro non hanno mai amato, che invece io ho amato moltissimo, io personalmente. Anche te. Loro non l'hanno mai amato perché Maestro ha scritto una volta, è robaccia, aveva detto. Ma come si può dire robaccia a un pezzo come If, una cavalcata psichedelica della prima facciata, secondo voi? Diciamo che è robaccia, però è un album che è stato rivalutato nel tempo. Diciamo che forse allora, quando è uscito, era troppo innovativo. Sì. Con questa parte orchestrale di 20 minuti, era una cosa che qualcosa avevano cominciato i Beatles su Sgt. Pepper, certo. Però loro l'hanno portato all'estremo e sono stati veramente dei grandi. Le sonorità, se andate a ascoltare, sono veramente eccezionali. Prendete il brano che chiude l'album, Alang, sì, che ha una... sì. Dove si sente un meglio po' di tutto. In cucina, un po' di tutto, pazzesco, cioè per quegli anni lì, pensate appunto negli anni 70 e pensate cosa si faceva in Italia. Certo. Cioè, fatti mandare dalla mamma, cioè, per capire il paragone. Sì, loro dobbiamo sottolineare che dentro, che viva Gianni, che dietro ai mix, che dietro alle macchine c'era Alan Parsons, quindi un personaggio, sì, esattamente, un giovane Alan Parsons, ma già aveva un grandissimo intelletto musicale. Loro erano veramente avanti e non è stato capito, diciamo, come doveva essere. Dimmi. Però scusa, poi volevo dire una cosa, i Pink Floyd in generale sono sempre stati super autocritici, nel senso che un altro esempio può benissimo venire da Live at Pompeii, che sì, Waters aveva definito altrettanto robaccia, e invece guarda che capolavoro hanno fatto, senza rendersene conto, secondo me, perché alla fine così è. Questo è vero. Cioè, ne parlano male spesso dei pezzi che fanno, tranne forse di The Dark Side of the Moon, quella, perché non possono smentire i miliardi di milioni che hanno di preso album venduti. Esattamente, i circa 60 milioni di copie vendute di The Dark Side, sì, una cosa incredibile. Comunque è un album, appunto, come ti dicevo, che è stato rivalutato, perché anche per esempio un anno e mezzo fa circa c'è stato un concerto a Londra, che hanno rifatto praticamente Atom Her Mother, dove è stato invitato Gilmour, con l'autore Ron Gesin, sì, che era l'arrangiatore, esatto, e quello è forse l'uomo che dava fastidio a qualcuno praticamente nell'insieme. Ti dico io, c'è un aneddoto là, perché lui, Ron, voleva avere a che fare con Wright era il più colto musicalmente, era quello che sapeva di musica, mentre Waters gli ha detto no, parli solo con me. Esatto. E quindi non c'è mai stato un dialogo. Esattamente, perché Waters praticamente non sa una nota, lui è autodidatta, quindi parlare di musica con un direttore d'orchestra è uno che non è, cioè, qualche difficoltà. Certo. Difatti loro, abbiamo letto nelle loro biografie, anche per scrivere la musica, per capirsi, usavano non in pentagramma, ma usavano degli schemi. Qualcuno diceva, perché visto che hanno fatto la scuola di architettura, è vero, questo è verissimo. Ancora musica, noi vogliamo sentire With Matrix qui a Blu Radio Veneto, dal vivo o dal disco? Io scegli tu, Claudio. Un altro brano dal vivo. Faremo sentire Coming Back to Life, che è un brano, diciamo, più gilmuriano, che è fatto appunto dall'ultimo album, e quindi scritta da Gilmour. Siete pronti? Vuole. Ok. Il Veneto come non l'hai mai sentito. When I was born and broken, while the days divide from my window watching, and where was helpless. Because the things you say and the things you do surround me. While you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining sun. Lost in thought and lost in time, while the seeds of life and the seeds of change were planted outside. The rain fell dark and slow while I pondered on this dangerous but irresistible pastime. I took a heavenly ride through silence. I knew the moment had arrived for killing the past and coming back to life. Took a heavenly ride through silence. Che meraviglia, che bravi, che bello. Insomma, io non so, cioè io sono di parte, perché per carità io vengo spesso a vedervi, però insomma siete veramente eccezionali. Grazie, Claudio, grazie. Lo sai cosa la penso. Claudio, no? Cosa? Suo Claudio ha detto. No, ma Claudio mi conosce bene. L'unico che non suona, va. Manovra però da dal coordinamento delle cose, dai, facciamo. Con Claudio ci conosciamo ormai da due anni, tre anni, Claudio, è un bel po' che ci conosciamo, tre anni, esatto. Tu hai citato Claudio, l'ultimo disco dei Pink Floyd, ufficialmente Division Bell, 1995. È il disco di grande successo del dopo Pink Floyd, forse il disco di più grande successo del dopo Pink Floyd, dopo The Final Cut, dopo l'abbandono di Waters. Sì, perché c'era voglia di Pink Floyd. C'era voglia di Pink Floyd, voglia di vederli in tournée, di vederli suonare. E anche adesso io sono convinto che se ripartisse una tournée dei Pink Floyd... Ma manca Wright, come si fa? Infatti ci sono voci, ma... ormai è improponibile. È improponibile, insomma, esattamente. È improponibile. Anche perché i rapporti tra Waters e Gilmour sono migliorati, ma... Non dal punto però di rifare la band. No, ci sono voci che probabilmente collaboreranno per qualche registrazione, voci di corridoio, così. Addirittura Gilmour è già in studio. In studio per fare un disco? Sì, sta già facendo qualcosa. Esattamente. E pare che... finita la tournée Waters faccio una cappatina. Sì. Perché Waters ha sempre avuto il discorso che lui voleva assolutamente il marchio Pink Floyd, e ha perso la causa multimiliardaria, in stelline si parla chiaramente. Sì. Però cioè, i concerti di Waters sono interessanti. The Wall ha fatto uno spettacolo meraviglioso recente, quando è venuto l'anno scorso a portarlo in Italia. Però la gente ama ancora il marchio Pink Floyd, non ama il marchio Waters, e questo è il discorso, secondo me. Sì. E lui questa cosa non gli è mai andata giù. Sì, infatti. Lui è così. Ne parlavamo anche tra di noi. Però se guardiamo bene, loro, per quanto successo abbiano, sia Gilmour che manca qualcosa l'uno dell'altro. Certo, questo è vero. Quell'alchimia che li aveva fatto... avevano prima non c'è più. Esattamente. Tu ascolti il miglior disco di Waters, che è bellissimo, sì. Però senti che manca sempre qualcosa, a fior di chitarristi, perché ha collaborato con Eric Clapton, certo. Gente. Però manca sempre quel tocco magico che aveva Gilmour. E altrettanto si può dire dei dischi di Gilmour, ultimi due dischi dei Pink Floyd, perché manca bellissimi dischi, ma manca il tocco geniale del pazzo. Del pazzo. Come chiamiamo noi? C'è un pazzo, prima di tutto c'è un grande pazzo che ha scoperto gli altri pazzi, c'era Syd Barrett. Sì, se non ci fosse... Poi Gilmour sarebbe entrato lo stesso senza Syd Barrett, secondo te? Visto che l'ha sostituito. Io penso, e penso di condividere anche il pensiero con il resto del gruppo, che i Pink Floyd non sarebbero tali se Syd Barrett fosse questo arrivato. Architetto mancato praticamente. Esatto, forse sarebbe stato un buon gruppo, avrebbero però non so, si sarebbero fermati molto prima, sarebbe stato come un normale gruppo anni 60, certo. La sua epoca. E a proposito di questo, nel vostro sito c'è una cosa molto bella, c'è il manifesto del Piper. Sì. C'è il Piper di Roma. Ricordiamo che i Pink sono stati al Piper di Roma e c'è stato anche Patti Pravo che ha detto: ma cosa suonate? Cosa state facendo? Che suono tirate fuori? Si parla di tanti anni fa. E la storia, questa è storia, ragazzi. Storia vera e propria storia. Loro non, tecnicamente non erano dei mostri, specialmente l'era di Syd Barrett, però loro con due accordi ti costruivano qualcosa, un'opera, un muro sonoro. Che a quell'epoca nessuno, specialmente qui in Italia, aveva mai sentito. Syd Barrett prendeva dei pezzi di legno, li faceva scorrere sulle corde della chitarra, adoperava questi echi, queste cose che qui da noi era... praticamente era avanguardia pura. Assolutamente. Io vi porto i saluti di Lucio, un vostro nuovo fans. Ciao. E dice: mi chiamo Lucio, vorrei che vi salutaste i Witmetrics. Ciao Lucio, grande, grande. Addirittura vi sta registrando, pensa un po'. 21:33 bootleg che... sì, esattamente. 21:33 di questo giovedì con i Witmetrics qui a Blu Radio Veneto. Siamo in diretta con Agostino Spolore, con Maurizio Calzervara, ma soprattutto con questi 11 cari amici che sono venuti a trovarci per presentarci questo loro progetto che dura da più di 20 anni, insomma, praticamente abbiamo capito. Sì, 20 anni, però che... Poi ti faccio una domanda cattiva, ma prima però ascoltiamo un po' di musica. Va bene, cosa ascoltiamo? Io farei ascoltare il pezzo che ti dicevo, cantato dalle ragazze. Dalle ragazze. Quello che il brano un po' vecchiotto, però riarrangiato da noi a modo nostro, certo. Si intitola Stay. Ah, non è... ma lo fate dal vivo, no, allora? No, ti facciamo questa dal vivo, Stay, wow. Cantata da Marta. Da dove è tratta questa canzone? Obscured by Clouds. Primissimi anni 70. Esattamente. Si è preparato il nome. no, questa pronuncia perfetta. Ok. Non mi ricordo i testi delle canzoni. No, sarà già Blu Radio Veneto. Tell me in the day, and if you don't mind, we'll break a bottle of wine, stick around, and maybe we'll put one down, 'cause I wanna find what lies behind those eyes. Midnight blue, to pray. Ma dove avete pescato Antonia, Marta e Serena, Claudio? Dove le avete trovate? È una lunga storia. È una lunga storia. Beh, Antonia so che faceva parte di, una, di un gruppo gospel che io amo, se sì, non sbaglio, vero? Antonia è l'ultima che abbiamo reclutato, ripreso. Sì, praticamente c'era la storia di un amico, un certo Lucio, tra l'altro, sapendo di questo nostro progetto, avrei bisogno delle coriste, due coriste, subito ne cercavamo due brave, io ne ho sentita una cantare, una certa Serena, e anche un'amica, voglio il numero subito, e le ho contattate, anzi ho dovuto bypassare perché prima ho dovuto contattare il fidanzato di una, perché non si sa mai il benestare suo, e poi loro mi hanno detto, guarda, ci sarebbe una nostra amica che piacerebbe questo progetto, e è arrivata l'Antonia, e è stato amore a prima vista, come si suol dire, tra di tutte e tre le coriste, è partita questa avventura e ci ha portato molte soddisfazioni fino adesso. Certo, certamente. Immagino. Anche a voi, certamente. Decisamente. Avete scelto un brano da Obscure by Cloud, che secondo la critica è il disco meno riconosciuto dalla critica, anche se Mason ha detto che è un disco straordinario, secondo me. Condivido, guarda, condivido, perché secondo me, dopo i tolto, diciamo, The Dark Side e The Wall, che non si discute, è il mio preferito. Tuo preferito. Ci sono delle chicche dentro che veramente sono qualcosa di eccezionale. Se andate ad ascoltarle, è veramente eccezionale. I suoni di tastiera sono integrati con questa chitarra di Gilmour che cominciava a sperimentare, che si sentiva che stava arrivando The Dark Side of the Moon. Certo, certo. Già da questo album. E questo, tra parentesi, è stato scritto Stay da Wright e Waters, praticamente. Gilmour non c'entra come stesura del pezzo. Esattamente, esattamente. Però in questa versione, che è una versione disco, un pezzo pop, tra virgolette, possiamo dire questo, siete d'accordo? Sì. Voi l'avete fatto in versione con le coriste, molto interessante. E quindi non è solo un tribute band, è un modo anche di cambiare, di modificare certi elementi per dare un certo peso, un certo riscontro a un modo di vedere le cose musicalmente da parte vostra. Sì, diciamo che per quanto ci si sforzi, certe cose sono inimitabili. Sì, abbiamo detto che Wish non si può imitare. Sì. Però noi certi brani abbiamo provato anche a immedesimarci in Waters o Gilmour. Dicono, questi brani degli anni 70, se l'avessero scritto oggi, certo, cosa avrebbero mai fatto? Mai fatto. Così ogni tanto noi ci buttiamo dentro qualcosa di nostro, insomma, ecco, sempre diciamo in linea Pink Floyd, non è che chiaramente senza uscire dalle righe, però ci piace. Ma avrebbero avuto le stesse sonorità secondo te adesso? Lui dice sarebbero influenzati da... No, secondo me no. Dovevano nascere nel 67 e sono nati nel 67, così, sì. C'è poco da fare. Sì. Poi abbiamo a che fare anche con i fans che sono molto critici. Parla al microfono. Parla al microfono. Portalo, no, dicevo che abbiamo a che fare anche con i fans che sono molto critici, non si può suonare come si vuole, perché ti chiedono... Ma... Dovete suonare in determinata maniera. Beh, certo, se l'intro di Shine o Crazy Diamond lo fai con le tre note classiche, esattamente. Ma fai c'è quel pezzo che è quella solo di chitarra, lo fai, Paolo? O è previsto dopo che lo fate dopo dal vivo? Non è previsto? Non è previsto, non è previsto. La verità. Un pezzettino. Però casomai abbiamo tempo, Con la classica non è come con l'elettrica, il nostro lo Paolo. Lo so, eh. Però insomma, Paolo è bravo, quindi ci bravo. Provi? No, sono troppo buone. Bravi tutti e due i nostri chitarristi. Sono gelosi. Certo, ma io bisogna lodarli tutti e due. Esattamente. Non voglio dare la presenza a uno. Allora, Marta, hai fatto scatenare le pelle d'oca. Lo scrive qui. E poi ancora dice: mi aspetto The Great Gigi in the Sky con Serena Pasinato. E qui scatta l'ovazione. Però ma possiamo fare una mediazione, visto che siamo in 11, con me e Agostino siamo in 13. Una mediazione, nel senso, un piccolo riff in un momento, Serena, la puoi fare di The Great Gig in the Sky? Un piccolo riff di qualche secondo. Vai, che ce la fai, dai. Riusciamo, perché sapete, qui a Blu Radio Veneto o a Rockaway, che è la stessa cosa, cambiamo sempre le scalette. Non è mai una solita, perché noi cambiamo tutto praticamente. Io, dimmi. Se tu vuoi, te la facciamo ascoltare dal vivo, dal disco, in CD, in una nostra registrazione. Però un pezzettino dal vivo, però un pezzettino dal vivo, sì, qualche... dai, ce la facciamo entro le 10:30, dai. Pezzettino. Un pezzettino, quello vuoi tu. Anche un minuto, basta, sì. Hai bisogno di un sottofondo? Fategli un sottofondo, magari. Assolutamente dal vivo, mi raccomando. Allora il nostro maestro se parte, Claudia. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Giovedì 12 aprile 2012 abbiamo i Pink Floyd qui a Blu Radio Veneto in versione with Macrit. Ma comunque with Matrix, però sono veramente eccezionali. Come dicevo prima, è una band che propone un concerto praticamente identico a quello dei nostri mostri sacri degli anni 70, 80, 90, anche perché no. Insomma, loro sono... tra l'altro siete la band ufficiale italiana, voi, se non sbaglio, giusto? No, siamo la band ufficiale italiana. La band ufficiale dei Pink Floyd sono solo gli Australian Pink Floyd in tutto il mondo. Non esiste... Però ogni nazione c'ha la sua... No, loro hanno dato, diciamo, questa ufficialità solo a loro. Tutti, qui in Italia ce ne sono parecchi che si definiscono Italian Pink Floyd, che si sono... ma non ce n'è, in realtà non c'è nessuno. Non ce ne sono. No. Ma voi avete chiesto autorizzazione per suonare, per fare questi pezzi, a qualcuno dell'entourage? No. Noi abbiamo solo... paghiamo i diritti d'autore quando si fa un normale concerto, come tutti, insomma. Mai avuto contatti con loro? Per un concerto di 2 anni fa avevamo, tramite un amico, siamo riusciti a contattare Waters e ci ha mandato, logicamente l'avevamo invitato, ma impossibile, però gentilmente lui ci ha mandato un fax augurandoci in bocca al lupo, insomma, per il concerto, che poi è andato anche molto bene. Ecco, nel giornale era uscito il titolo Roger Waters benedice with Matrix. insomma, per noi è stata una soddisfazione. Poi l'anno scorso abbiamo contattato il batterista, perché abbiamo suonato al Pink Floyd Day, che è stato il primo raduno nazionale dei fans dei Pink Floyd. Noi abbiamo suonato, un'unica band, e avevamo questo contatto con Mason e siamo andati a Brescia durante la Mille Miglia. Sapevamo che lui è un esperto di macchine. Sì, lui è un appassionato di macchine, esatto. E sapevamo l'albergo, e allora, sempre tramite questo nostro amico, che lui è il contatto, proprio è amico dei Pink Floyd, quando vengono qua contattano lui. Siamo andati lì con il nostro CD e gli abbiamo chiesto di partecipare al Pink Floyd Day, però lui ci ha detto guarda, è un accordo che abbiamo tra noi tre, rimasti chiaramente, che non partecipano a nessun tributo, perché sennò c'è una reazione a catena, praticamente, certo. Non vivono tutti più, immagino. Certo. Esatto. E quindi ha detto non, ragazzi, mi dispiace, ma non si può fare. Però la nostra soddisfazione è che noi gli abbiamo dato un CD nostro. Beh, tutti vanno là con il CD dei Pink Floyd da fare autografare, noi gli abbiamo dato il nostro e ce l'ha autografato. È stato molto gentile, ecco, è stato un episodio così. I vostri concerti prossimi, futuri, praticamente? Beh, i prossimi futuri, diciamo che ci stiamo preparando per la Svizzera. Infatti questo segreto svelato. Sì, non avete ancora messo le date, sì, le metteremo fra poco, insomma. Comunque suoneremo quest'estate, andremo in Svizzera e poi... Fate una tournée lì, Claudio. Faremo un paio di date. Un paio. E dopo, praticamente dopo pochi giorni, partiremo per la Croazia e anche lì faremo 3 date, mi pare, e poi concluderemo tutto a Torre di Quartesolo, Marola, sì. Il nostro posto ormai storico. Un teatro, comunque? Come? È un teatro a Marola? No, è all'aperto. All'aperto. Sì. Adesso in teatro praticamente non lo... Quindi con il laser dal vivo, cioè all'aperto, deve essere qualcosa di ancora sì, più noi bello. All'aperto sono le situazioni che ci piace di più. Sì, sì, sì, sì. Watt, volume, potenza. Tutto volume. tutto watt. Sì, sì, sì, noi ci gasiamo. Tienici informato. Che, ma certamente, certamente. Tenete d'occhio il nostro sito. Ricordiamo il vostro sito, Claudio. Che in questi giorni anche verrà rinnovato nelle foto, Facebook, ci siamo quasi tutti noi del gruppo. E c'è Mirko che si sta agitando, non so. www.withmatrix.com giustamente, perché sennò si agita. Sì, ci tiene. Poi su Facebook With Matrix Tribute Band, e poi ci siamo noi singolarmente. C'è anche la fan page che è nata di recente dalla nostra amica fans Elena Semenzato, che ci ha dedicato questa pagina. Quella delle che faceva le foto, anche se non sbaglio. Curava. Sì, l'ho conosciuta, ci siamo conosciuti al concerto. Esatto, sì, esatto. Al concerto di Vicenza c'era anche lei, è nata questa amicizia, sì, così. Sì. Non avete ancora una pagina, una fanpage, ma non sapevo neanche che cos'è, dire la verità, perché non è che siamo così esperti di Facebook. Ve la faccio io, ecco, la ringraziamo. Senti, Claudio, a proposito di fans, diciamo anche la prossima, come dire, cena che fate, questo omaggio, sì, ai fans. Certo. Il 20 di aprile, quindi tra poco faremo una cena a Dai Gelosi, che è un ristorante di Valprotto, guardate sul sito, comunque c'è tutto quanto, sul nostro sito ci sono le indicazioni, e facciamo una cena con i fans, insomma chi vuole partecipare paga la quota e viene lì, dopo finito la cena c'è una sorpresa, suoneremo ma non si sa ancora cosa. C'è una sorpresa. sì, esattamente, lo diciamo che la Marta ballerà. Praticamente faremo dei pezzi che facciamo 10-15 anni fa, periodo pre Pink Floyd. Comunque ricordiamo che la cena è a numero chiuso, quindi c'è un limite massimo di partecipanti, giusto? Se non sbaglio. Sì, 200 persone, però dopo se ce ne sono di più ci hanno già detto in ristorante che al limite non c'è problema. Si aprono un'altra sala, quindi non c'è problema. Ah, 500 anche. Sì, sì, sì, chi vuol venire. Fate un altro concerto. Sì, sì. Allora, ci si diverte tutti insieme e poi si canta insieme. È una bella iniziativa comunque questa, sai, invitare i propri fans a venire. Sì, noi di solito ogni anno facciamo una cena tra di noi con i nostri tecnici, così uno. Era già 2 anni che non, per un motivo o per l'altro non l'abbiamo fatta e ce la chiedevano, poi qualcuno la sentiva, ma perché non invitate anche quella? E così è nata l'idea, un po' da Paolo, dire la verità, e è stata sposata al gruppo subito questa idea. Perché quando c'è da divertirci noi non ci tiriamo mica indietro. Vabbè, ci manca. Soprattutto per mangiare. Paolo per mangiare. Difatti il menù è stato curato prettamente da lui. Allora, lo facciamo lavorare Paolo, perché è venuto qui anche per lavorare questa sera. Sì, ci fate qualcosa dal vivo adesso. Sì, vi faremo un classico, Money. Oh, bellissimo. Siete già pronti? Yes. Pronti. Via. Blu Radio Veneto. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Money. hit. Don't give me that do-goody gum bullshit. I find reality first class traveling set, and I think I need lay down. Anche Claudio guida. Sì, sì, guida, guida. Dobbiamo studiare una cosa. L'avete fatta, cioè originariamente il pezzo era nato come un blues da parte di Roger Waters. L'avete fatta in chiave soul. A me piace molto in chiave black, in chiave nera. È molto noi positivo. Siamo molto black. Molto black, molto. Siete molto black. È stato molto positiva, molto interessante le voci black, le voci nere, le voci soul. Rivissuto, cioè avete riproposto in questa chiave, anche se si può toccare Money, si può toccare Wish, non si può toccare, ma Money si può toccare. Cosa dici, Claudio? Sì, certo, noi si può toccare in senso positivo, indubbiamente. Sì. Due anni fa abbiamo anche messo su uno spettacolo acustico con degli archi e abbiamo portato in giro per un certo periodo questa nuova sonorità, questo nuovo modo di suonare Pink Floyd. E anche per poter eseguire certi brani che in elettrico non rendevano. Certo. E alcune canzoni come questa l'abbiamo modificata, l'abbiamo resa più black e abbiamo dato più spazio alle voci. Alle voci delle tracconiste, mi pare. Alle voci così. Bisogna, assolutamente bisogna. Se qualcuno volesse acquistare i dischi vostri, esiste qualcosa di ufficiale? Sì, o certo. Solo durante i vostri concerti, Claudio? No, basta che ci scriva nel nostro sito, nelle nostre email, ce lo richieda, lo spediremo comodamente a casa. Tranquillamente. Sì, DVD e CD, abbiamo un bellissimo CD live a Milano registrato durante il Pink Floyd Day e anche un DVD doppio, bellissimo. Lo so che sono di parte, Ago, però è veramente bello, perché devo dire. Beh, insomma, le riprese sono state fatte bene, registrato direttamente dal mixer. No, è stato poi mixato in studio. Sì, sì, beh, è registrato sì, con un registratore a piste, messo, diciamo, livellato. Ecco. Questo da parte del fonico sempre vostro? Da parte del nostro fonico e noi anche insieme. Che siamo... dovevate curare. Sì, sì, sì, sì, sì. Noi ci teniamo, cioè qualsiasi prodotto che esce dalla nostra sala prove è pensato, voluto da tutti quanti noi. Quanto ci mettete tra di voi a organizzare, a proporre una canzone nuova? Facciamo ah, 2 minuti, ci penso io, decido. E via, e via. Sono un dittatore, lo so. Democrazia innanzitutto. Sì, esatto. Ma poi per svilupparla poi invece... No, beh, un paio di prove si mette sul brano. Ogni tanto si cerca di proporre qualcosa di nuovo, qualche... Mm-hmm. Qualche pezzo, a noi piace andare anche a pescare qualcosa. A pescare, come tempo fa facevamo lo Set the Control. Bellissima, quella è bellissima. Un brano un po' particolare che noi tra l'altro lo arrangiavamo un po' a modo nostro, l'abbiamo reso più, come dire... Meno psichedelico. No, più psichedelico. Ah, più ancora psichedelico. Cioè, aveva quella sonorità quasi araba, diciamo. Mm-hmm. Infatti all'epoca... quando lo suonavamo c'era anche una ballerina, Erika, che salutiamo tra l'altro. Ciao Erika! Ha sentito il coro. E qui non esisteva un video ufficiale di questo brano, l'abbiamo creato noi con le dune del deserto, un po' tutto. È un brano molto molto particolare. Lunghissimo da parentesi, se si vuole, sì, molto lungo. Che tra l'altro abbiamo sentito che recentemente un gruppo... l'ha rifatto in versione nostra, l'ha ripreso così. Sì, sì. esatto. Quindi andiamo anche orgogliosi, insomma, di questo. Ricordiamo che durante il vostro spettacolo anche ci sono delle ballerine. Sì, sì, ultimamente stiamo collaborando con una scuola di danza di Bassano, la scuola San Bassiano, che sono molto brave, che loro hanno fatto dei musical. Hanno portato in giro un musical di Mamma Mia, quindi sono molto molto bravi. E c'è la loro coordinatrice Patrizia, che è veramente eccezionale, è pazza quasi quanto noi, perché per fare queste cose bisogna essere un po' particolare. Lei è veramente brava, ha capito subito lo spirito dei Pink Floyd. Noi l'avevamo contattata e gli abbiamo detto: su questi brani ci piacerebbe fare così. Ah sì sì sì sì. E lei è andata anche oltre, veramente molto, molto. Quindi in un certo momento dello spettacolo siete in 16. Sì, esattamente. Sul palco. Quindi provate a immaginare la grandezza innanzitutto del palco. Poi sì, c'è il famoso disco, chiamiamolo così, grande, dove viene proiettato tutto. Ah, sì, il cerchio, lo schermo. Lo schermo ci vuole. Diciamo anche il maialino. Anzi, ne approfitto per salutare il nostro regista Emilio Noaro, che è l'autore di tutti i video. Non è facile lavorare con noi, perché siamo anche esigenti. Cioè, quando proponiamo una canzone, perché notoriamente i Pink Floyd non è che ogni brano avevano il video, quindi ce lo inventiamo. Andiamo in cerca, ci mettiamo lì a tavolino, studiamo qua, sai, questa sonorità ci vorrebbe un video così, noi proponiamo e poi bocciamo. È il nostro regista, sì, me li bocciano quasi sempre, però, e poi il nostro regista, che è anche videomaker, diciamo che è lui che taglia, incolla, fa questi video, è bello, mette in pellicola. Poi anche la boccia, chiamiamola così, con il laser all'interno che si apre. Ah sì, quello è il nostro orgoglio. L'orgoglio. La palla, specchio, un gioco di luci fiore, pazzesco. Mi togli una curiosità, Claudio, come mai avete tolto i fuochi quest'anno? Io mi ricordo i concerti precedenti che proprio, c'era proprio il fuoco vivo proprio. Il fuoco, il problema è... Che bruciavate voi? No. Il problema è che sì, sono cambiate le leggi in questi, non questi lo sapevo, anni. E quindi per trovare, diciamo, la polvere, che è una combinazione di due sostanze, non è facile. Prima la facevamo arrivare dall'America, poi non è più stato possibile, quindi abbiamo dovuto cambiare e usare altri macchinari, ecco così. Adesso pare che qualcosa si possa fare, insomma. Abbiamo trovato un altro sistema, cioè un addetto apposta, si può fare qualcosa, quindi prossimamente, penso per l'estate, ritornerete a vedere i famosi fuochi. No, sì, era solo una semplice curiosità. Sì, era una nostra particolarità anche, perché infatti non c'era in giro, però ritorneremo comunque. Comunque chi era vicino aveva molto caldo, comunque te lo posso garantire. Ma a dirti la verità... Il chitarrista lo sa. Sì. Sì, è un po'. Sperattamente, cioè, noi li facevamo durante gli attacchi, quindi questa vampata di fumo non vedevamo più le note. È un po' particolare, sì, sì. Ascoltiamo qualcos'altro adesso. Vuoi ascoltare qualcosa dal sì, disco? Vorrei farti ascoltare Comfortably Numb, che è quella sempre vostra. Sì, meravigliosa. Blu Radio Veneto, Costino Spolavore, Maurizio Calzavara, ma soprattutto i With Matrix. Yeah. Radio Veneto. Di colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Uno dei pezzi storici, questo indubbiamente, Claudio, cioè, certo. Poi dal vivo con questi giochi di luce, insomma, è un momento molto entusiasmante, molto emozionante. Sì, infatti. Durante la vostra esibizione, insomma. Allora, Mirko Zanotto alla voce, giusto? Sì, ciao. Ciao. ciao. Claudio Pagliatti al basso. Esattamente. Andrea Bassan alle percussioni. Esatto. E batteria e percussioni. Batteria. E poi abbiamo Paolo Magaraggia alla chitarra elettrica e acustica, chitarra solista e ritmica. Poi c'è Claudio Tiso alle tastiere. Alessandro Farina al sax e flauto. Ah sì, giusto, perché suona anche il flauto, è vero. In alcuni pezzi. Poi, e oggi abbiamo scoperto anche chitarrista. Prossimamente vedrete, polistrumentista. Francesco Fiorese alla chitarra acustica e anche alle slide. Lui suona tutto, è una cosa veramente... E quello è anche un altro momento emozionante del concerto, lui seduto su questa... Ecco. Poi c'è Ivan Franchetto alle percussioni e batterie. E poi abbiamo le coriste, che sono tre straordinarie. Abbiamo Serena Pasinato, ciao. Marta Melchiorri, ciao. E Antonia Pia. Ciao. Allora, in pratica i With Matrix abbiamo quasi concluso, però insomma chiacchieriamo ancora un pochino, insomma qualche minutino. Vorremmo farti un regalo noi. Un regalo? So che gradirai. Vorremmo farti sentire l'intro di Shining. Ok? Ok. Tutto per te. Grazie. Sentiamolo. Per te, Agostino. Bellissimo. Come si fa? Improvvisato. Io starei ore e ore ad ascoltare questo. E ti posso garantire che noi, dalla parte del pubblico, c'è un silenzio. C'è silenzio, cioè si ascolta solo queste note. Poi dopo, quando parte la canzone, magari qualche applauso scatta, però quando c'è questo momento qui e c'è silenzio, è veramente quasi tombale. Liturgico. Giusto. Meravigliosa, grande, grandissima, insomma, siete veramente molto, molto bravi. Grazie. Allora, siamo arrivati quasi al termine. Sì, se mi permetti vorrei ricordare un appuntamento, certo, di domenica. Domenica praticamente siamo stati invitati come ospiti a un concerto di Bassano del Grappa, al Palasport. È un concerto a scopo benefico, ci saranno molti ospiti, non siamo solo noi. Ci sono i ragazzi di Io Canto, la trasmissione di Jerry Scotti, Canale 5, c'è la vincitrice di X Factor, un presentatore che ha lavorato su MTV, mi pare, non vorrei... praticamente quello che dà la voce all'uccellino della pubblicità di Del Piero, quel ragazzo lì. Ecco, e siamo stati chiamati e andiamo molto volentieri, insomma, perché quando c'è da fare qualcosa di positivo... di bello, di buono e soprattutto aiutare gli altri, noi ci siamo. Ecco, quindi vi ricordo, chi vuole anche partecipare, anzi è cosa gradita, Il concerto è domenica alle ore 16, quindi è anche un orario accessibile a tutti. Dov'è praticamente? A Bassano del Grappa, al Palasport. Perfetto. Ecco, adesso... E i prossimi concerti, il prossimo proprio più vicino? Il prossimo più vicino è il più lontano, perché penso che sarà quello in Svizzera. Ah. Penso che sarà quello in Svizzera. Parla vicino al microfono. Sì, abbiamo qualcosa anche qui in maggio, però adesso è prematuro parlarne, siamo ancora, come si suol dire, in trattativa, quindi ecco, non vorrei... E vabbè, ecco. Insomma. Niente, noi ti faremo ascoltare un altro brano, un classico. Prima però Blu Radio Veneto vi ringrazia di aver accettato l'invito. È stato un onore, un piacere. Quando vuoi, noi ci torniamo sempre volentieri. Vi ringraziamo. Magari per il prossimo nuovo concerto, magari. Ma certamente, magari dopo il tour, dopo certo. L'estate, così ti raccontiamo com'è andata. Perché certo. no? Possiamo fare. Con i brani che io e Claudio parlavamo all'inizio di trasmissione, io avevo proposto. Io sono un rockettaro di prima maniera, un floydiano di prima maniera, a me piaceva sì Emily Play, e nelle vie del signore musicali può darsi che arrivi anche sì Emily Play. Beh, non si sa non mai. Si sa mai, Non si sa mai. Ti possiamo anche fare If, so che tu... Ah, If, un altro capolavoro assoluto, il più bel pezzo scritto da Waters, anche se lui dice... Comunque no, Claudio... Per settembre te la facciamo. Claudio, okay. Il prossimo concerto viene anche a Maurizio a vedervi, perché lì è stata colpa mia, insomma, non gliel'ho detto che venivo e la prossima volta comunque lo porto con me. Insomma. Certamente, ben volentieri. Così viene a sentirvi dal vivo e soprattutto vi vede questo spettacolo meraviglioso. Ricordiamo 11 elementi sul palco, più le ballerine, quindi una coreografia straordinaria. Due batterie, una montagna, chiamiamola così, di percussioni. Ma come dovrei chiederlo a lui forse, com'era il gioco tra un batterista e l'altro, insomma, un saltare continuamente da una batteria alle percussioni, poi cioè com'era? Andiamo com'era? A correre tutte le sere. Andiamo a sì. Per stare in forma. Sono veramente bravi, perché non è facile, ve lo posso garantire. E per mettere su questo spettacolo abbiamo praticamente siamo stati fermi quasi 3 mesi e di prove continue, ma oltre alle prove loro due proprio si trovavano anche da soli a provare, a riprovare, hanno perso un sacco di tempo, e d'altronde però i risultati si vedono. Poi sono due persone intelligenti, perché uno non è che vuole farsi sentire più dell'altro, hanno capito, e è venuto fuori una cosa veramente esplosiva. Siamo fieri di questi due batteristi. Immagino. So. Siccome dobbiamo ancora mangiare, allora come quella. Ho trovato chi paga. Allora, io ne approfitto per salutare Oriada, che è una delle ballerine, che vi ha fatto un commento su una vostra foto, che dice che gli piace, insomma. E poi ancora salutiamo, c'è... Ciao, piace anche a noi. Sì, sì, sì. Poi c'è... beh, sì. Ma soprattutto vicino a Paolo, però, Oriada, se non sbaglio, ovvero vestita all'americana. Ma è passata anche dal cantante. Ah, sì? Sì. Poi c'è Valerio, che ha commentato... Valerio Pizzato. Certo. E poi c'è un'amica di Blu Radio Veneto, che è la Susanna, e la Marisa della Toscana, che vi sta ascoltando, vi porge i suoi saluti. E poi c'è contraccambiamo Lucio, ovviamente a tutti quanti. E Lucio che lui fa una montagna di chilometri con la macchina per venire a vedere. Sì, veramente. Numero uno. Allora, chiudiamo adesso, che sono le 22:26, lasciamo lo spazio ad Alberto Prisco e la sua classifica di musica rock. Io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre qui alle 21, questa volta con un cantautore, quindi dalla musica sacra al rock di questa sera, al cantautore con Stefano Ardenghi, che viene da Milano e ci verrà a proporre il suo disco momentaneamente assente, ma comunque ne parleremo la settimana prossima alle 21, sempre qui a Blu Radio Veneto, con Agostino Spolore, con Maurizio Calzavara e soprattutto con la vostra emittente. Prima però i With Matrix ci regalano forse, non dico la più famosa, ma insomma, se non altro, una delle canzoni che... Una delle più famose, è rimasta in mente chissà perché, insomma, comunque, poi forse il film, forse. Sì, forse il film. The Wall è il mitico. E invitiamo quasi quasi a cantarla a tutti da casa, va? Esatto. E scusi i presenti, però. Io e Agostino. Io certamente non canto. Assolutamente. Allora, grazie di cuore da parte mia, da parte di Maurizio, della vostra presenza. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi, è stato un vero piacere. Noi ci vediamo per la cena e ci vediamo anche per il prossimo concerto. Va bene? Grazie. Ciao a tutti. Allora, ciao. The Wall dai With Matrix. Prego. We don't need no education. We don't need no tax control. No dark sarcasm in the class.